Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Le persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione che guarda al mondo, all'attualità, alla politica e alla cultura attraverso lo sguardo, il punto di vista degli animali. Sarebbe più corretto dire di tutti gli altri animali, dal momento che anche noi umani facciamo parte del grande regno dei viventi senzienti. Sarà una puntata particolare questa nostra 524esima, perché sperimenteremo una co-conduzione. Vi proponiamo quasi una monografia, perché l'etologo antispecista Francesco De Giorgio, autore del libro Nel nome dell'animalità e amico di questa trasmissione, ci ha regalato alcune delle sue riflessioni legate all'attualità. Allacciatevi le cuffie di sicurezza. And the perverted fear of violence chokes the smile on every face. And common sense is ringing out the bell. This ain't no technological breakdown. Il 4 febbraio scorso su CorrieReFiorentino.it compariva la seguente notizia. Il comune di Greve in Chianti, in Toscana, nei pressi di Firenze, ha deciso di dare il via a un progetto che consentirà ai dipendenti comunali di portare al lavoro i propri cani. Il progetto prende il nome di Ufficio Pet Friendly e, secondo il sindaco del comune, l'iniziativa incentiverà un miglioramento del clima lavorativo. I dipendenti, avendo al proprio fianco l'amico a quattro zampe, aumenterebbero la loro produttività. Su questa notizia di attualità vi proponiamo la prima riflessione di Francesco De Giorgio, etologo antispecista, amico della liberazione animale. Noi animali umani viviamo da una parte in una società ancora lavorocentrica e da un'altra parte chiediamo sempre di più il contatto con la natura, mutuato spesso dal convivere con animali, quelli che chiamiamo domestici, come nel caso dei cani, che trasciniamo appunto nel lavorocentrismo. Questo è il caso delle crescenti situazioni in cui aziende e amministrazioni comunali permettono l'accesso dei cani in ufficio a seguito del loro convivente umano. In più si associa a questo una sorta di cinospecismo in cui vengono favoriti i cani rispetto ad altre specie, con i primi che hanno accesso a posti dove non verrebbero mai portate altre specie, con la giustificazione che i primi, i cani, sono stati modellati per vivere con gli umani, diversamente da cavalli, capre, asini, tori, maiali, galline, eccetera, che in questo senso un po' si salvano, al dire il vero, dal volerli presenti in ogni luogo possibile insieme agli umani. Luoghi e contesti pensati per gli umani, non per altre specie, non per i cani. E in questo buco nero di vite che non scelgono ma che vengono aspirate senza scelta, noi trasciniamo anche i cani, sottoponendoli a una dose massiccia di pressioni e aspettative in ambienti e contesti inadeguati, anche per gli animali umani. Inoltre, per fare in modo che il cane sia tranquillo in ufficio, che non disturbi i colleghi, ecco che scatta subito l'educazione cinofila in contesti lavorativi, dove il cane malcapitato di turno viene educato a rispondere alle coordinate di una dimensione già piena di tensioni, aspettative e pressioni lavorative per gli umani. Ma poi in quali spazi vivrebbe? sotto una scrivania, dentro un archivio, tra i corridoi, sulle moquette polverose degli uffici, quali altri cani poi rischia di incontrare e con quali deve forzarsi all'incontro tra una pratica e l'altra, tra un collega e l'altro. Una vita di coesistenza animale richiede scelte, richiede contesti adeguati dove vivere e dove viversi. Più che trascinare i cani in ufficio, dovremmo invece noi, animali umani, sovvertire proprio il concetto di lavoro, il concetto di ufficio, seguendo cani e altri animali nel cercare nuove vie di vita, nuove possibilità, nuove avventure. Sostituendo un'immagine con un'altra. Cercare quindi un posto nel mondo che non sia per forza su una moquette polverosa di un ufficio, che non sia per forza lavorocentrico, ma che segue le tracce di un cane nella terra fresca di pioggia, tra le foglie mosse dal vento, dove ognuno di noi animali, inventandosi e reinventandosi, possa portare un contributo degno e pregno alla vita. And I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they are painted black. And my love hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore. Tema del coronavirus non c'è bisogno di grandi preamboli, la notizia è fin troppo attuale, diffusa e nota. Su questo tema diamo la parola all'etologo antispecista Francesco De Giorgio. La scelta di nutrirsi di altri animali e dei loro prodotti in modo così massivo, sin dalle origini delle culture pleistoceniche collegate alla caccia, ma anche prima in altre specie Homo, come ad esempio nei Neanderthal, ma anche negli Erectus e altri ominidi, spesso viene vista come una scelta biologica, inappellabile, in accordo con una natura di base onnivora. Nella realtà dei fatti, però, le cose non stanno proprio così. In realtà c'è stato un vero e proprio tradimento biologico del nostro corpo, così possiamo chiamarlo, per motivi di necessità, tali o presunti. Questo tradimento ora è assunto per molti a verità e quindi si afferma che noi animali umani siamo biologicamente adatti ad essere onnivori, mentre invece lo siamo solo culturalmente, che sono due cose diverse. Il fatto che lo siamo culturalmente onnivori si evince anche dall'incessante aumento di patologie, soprattutto in tempi moderni, non solo virali come nel caso del coronavirus, ma anche cardiovascolari, tumorali, renali, metaboliche in generale, collegate al consumo alimentare di animali e dei loro prodotti, che non ci può altro che dire che siamo assolutamente inadatti sia evolutivamente sia biologicamente, in quanto animali umani, a nutrirci di altri animali. L'idea dell'uomo cacciatore e della donna raccoglitrice ci racconta inoltre di come la caccia fosse sorta più che come necessità, come cultura di dominio dell'uno sull'altra, come dimostrazione di forza dell'uno sull'altra, cioè di quell'ideologia della distinzione di ruoli superiori e inferiori, verticistici e piramidali, che poi avrebbe portato alla cultura del patriarcato, che in molti modi ancora oggi viviamo. In questo la medicina convenzionale non aiuta, in quanto ancora ideologicamente legata ai cacciatori del Neolitico, paradossalmente, da cui non riesce ad emanciparsi e ad emancipare, che si preoccupa di curare malattie che hanno un'origine culturale, invece che ritornare alla biologia vera e propria degli umani. Premessa fatta, personalmente devo dire che anche se fossi biologicamente vampiro, diventerei comunque culturalmente un vegano. Un vegan Dracula, direi. Anzi, meglio, diventerei un Dracula a cultura antispecista, perché mi sarebbe insopportabile imporre sofferenze animali per rispondere al mio bisogno di sangue, o presunto tale. Facebook Zoo Out, che ogni animalista dovrebbe seguire con regolarità, ha recentemente commentato una notizia diffusa dal portale del Daily Mail Australia, secondo la quale l'ente benefico australiano per il benessere degli animali, RSPCA, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, equivalente più o meno della nostra EMPA, invierebbe regolarmente bestiame ai macelli, compresi i puro sangue che vengono usati per le corse, per ricavare carne da destinare agli animali degli zoo del paese, come tigri e leoni. In un solo anno l'industria delle corse avrebbe inviato ben 4.000 puro sangue al macello, producendo così mangime per gli animali degli zoo. 4.000 cavalli l'anno sono un numero enorme, che si può spiegare solo con l'alto numero dei cavalli da corsa, sommato anche alla loro brevissima carriera, che rende questi animali ben presto dei pesi economici insopportabili. Due follie che si sommano dunque, quella delle corse dei cavalli e quella degli zoo, i cui animali carnivori, costretti in cattività, devono pure essere nutriti. Anche sugli zoo sentiamo un commento dell'etologo antispecista, amico della liberazione animale, Francesco De Giorgio. Fin da bambino mi veniva naturale cogliere il disagio degli animali rinchiusi negli zoo che, raramente devo dire, i miei genitori mi portavano a visitare. All'epoca gli zoo erano meri contenitori di animali, sacrificati per la conoscenza, per la scienza, per lo studio, per tutta quell'ideologia interessata a conservare specie più che soggettività, dove adulti e bambini di animali umani si trascinavano da una gabbia all'altra, da un fossato all'altro, da un viale all'altro, desensibilizzati alla sofferenza più che interessati alla conoscenza dell'animalità. Con questa idea degli zoo quale strumento didattico è assolutamente fondamentale a scongiurare l'estinzione delle specie, di salvarle, di conservarle, a rappresentare quindi un'idea vecchia, vittoriana, coloniale, che non regge nel confronto con idee, culture, tecnologie e didattiche avanzate, quelle che liberano, intendo. In più, oggi i giardini zoologici, che io chiamerei gli inferni zoologici, sono diventati, oltre che contesti di detenzione per fini conservazionisti, anche sede di intrattenimento circense nel tentativo di sopravvivere economicamente in qualche modo, e tutta quell'idea romantica di conoscere e salvare il mondo animale si perde nelle attività da circo che sempre più vengono integrate per attirare gente e consensi, per apparire meno tristi e più divertenti. Un po' più paradiso e meno inferno. Ecco che un elefante mostra il suo livello di addestramento, ben inteso con rinforzo positivo e clicker che non rende la cosa più buona, ma anzi più subdola, nel sollevare roboticamente il piede per farsi limare le unghie dal custode, che un leone di mare saluta a comando sui bordi di una piscina, che una zebra fa un inchino su richiesta e varie altre circensità travestite da fin di bene. Tutto questo addestramento mostra la sua maschera più scura quando vedi poi tutti questi animali con disturbi comportamentali, non solo indotti dallo stato di cattività dello zoo di per sé, ma anche forse e soprattutto in tutti quei casi in cui sembrano fare cose divertenti. La cosa più imbarazzante, poi, almeno per me in quanto etologo, è che spesso si confondono i disturbi del comportamento, come negli stati ansioso, ossessivo, compulsivi, come voglia di fare spettacolo di quell'animale. Questo a detta del team scientifico addestrativo di turno dello zoo. Quindi non solo si arriva a detenere e imprigionare corpi, ma si recludono volontà autentiche, desideri spontanei, pensieri emancipati. E questo accade negli zoo, nei circhi, ma anche nel nostro quotidiano. Quando addestriamo o educhiamo il nostro cane a rispondere ai nostri comandi, alle nostre richieste e alle nostre aspettative. Ed ecco che anche a casa nostra, anche tra le pareti di casa nostra, tutto questo rischia di diventare uno zoo, un circo, un luogo di detenzione dell'animalità, anche umana. Thank you. Tempura di patate, dolci con coriandolo alla menta, insalata di funghi maitake con melanzane baba ganoush, pasta homemade con limone Meyer, maccherone di barbabietola, winter french toast con pumpkin cream brûlée e sorbetti al cocco, ai lici e al mandarino. Sono queste alcune delle prelibatezze vegane che sono state servite alla cena che ha seguito la cerimonia di assegnazione degli Oscar il 9 febbraio scorso negli Stati Uniti. Una cena per il 70% vegana e completamente plastic free. Le scelte cambiano con il clima e l'attore Joaquin Phoenix, che si è aggiudicato l'Oscar come migliore attore protagonista per il suo Joker, ha fatto sicuramente la sua parte per orientare le scelte di questa grande kermesse, essendo vegano da anni. Ma Joaquin Phoenix non si è limitato a questo. L'attore ha tenuto anche un appassionato discorso nel quale evidenzia l'intersezionalità delle lotte, mettendo l'agonia dello sfruttamento animale sullo stesso piano delle altre oppressioni. Penso che, ha detto Phoenix, sia che parliamo di disuguaglianza di genere o razzismo o diritti LGTB o diritti degli indigeni o degli animali, stiamo parlando della lotta contro l'ingiustizia, stiamo parlando della lotta contro l'opinione che una nazione, un popolo, una razza, un genere, una specie ha il diritto di dominare, usare e controllare un'altra con impunità. L'attore Phoenix, convinto ambientalista, ha poi proseguito esortando la platea a recuperare il contatto con la natura. Penso, ha detto Phoenix, che siamo diventati davvero sconnessi dal mondo naturale. Molti di noi sono colpevoli di una visione del mondo egocentrica e crediamo di essere al centro dell'universo. Andiamo nel mondo naturale, lo deprediamo per le sue risorse, ci sentiamo in diritto, ha concluso Phoenix, di inseminare artificialmente una mucca e di rubare il suo bambino, anche se le sue grida di angoscia sono inconfondibili. E poi le prendiamo il latte, fatto per il suo vitello, e lo mettiamo nel nostro caffè e nei nostri cereali. Un discorso così mirato come quello di Phoenix non poteva non sollevare qualche critica. Chi si oppone al veganismo, infatti, sostiene che non ci sia nulla di innaturale nella catena alimentare basata sullo sfruttamento degli animali e che sia invece innaturale per l'uomo tirarsene fuori. Prontamente la National Milk Producers Federation, nella persona di Alan Bierga, ha diffuso una nota. Siamo in un paese libero, con libertà di espressione, ma avremmo preferito che Joaquin Phoenix avesse parlato con noi e non contro di noi, perché se lo avesse fatto avrebbe imparato molto sull'impegno che gli allevatori mettono nella cura degli animali. Ovviamente gli allevatori non hanno alcuna intenzione di mettere in discussione il sistema carnista. Per questo Phoenix rappresenta per loro una spina nel fianco. Abbiamo trovato nella pagina Facebook dell'attore antispecista Fulvio Venanzini un commento molto interessante a proposito del discorso di Phoenix. Di solito nei discorsi delle premiazioni agli Oscar si sentono frasi fatte, frasi di circostanza, ringraziamenti a miliardari di Hollywood o addio. Joaquin Phoenix invece ha scelto di parlare sinteticamente, senza troppa retorica, di problemi concreti e tra le altre cose ha citato lo sfruttamento delle mucche. Forse perché le mucche sono gli animali che subiscono di più il dominio totale e spietato. Sono viventi indifesi, abusati, dileggiati e a loro viene sostanzialmente negato lo status di vittime e di sfruttamento, perché il latte, a differenza della carne, è percepito come un simbolo della purezza, della semplicità, della genuinità e costituisce nell'immaginario collettivo qualcosa di irrinunciabile sia dal punto di vista alimentare che culturale. La mucca dal latte, che in natura ovviamente non esiste, è un animale di fantasia creato dall'industria lattiero-casearia e viene sistematicamente occultata la dura realtà che si cela dietro il bicchiere di latte servito dalla mucchetta felice, quella fatta di prigionia, di stupro, di tortura e di morte. Demistificare questa propaganda ha qualcosa di rivoluzionario. Il processo di produzione di latte e latticini un contadino analfabeta lo conosce, mentre il laureato medio no. Un motivo forse c'è. Che queste cose le dica il Papa o Joaquin Phoenix non ha nessuna importanza, ciò che conta è che vengano dette, perché solo pronunciandola quella sofferenza occultata e negata per secoli può finalmente cominciare ad esistere e a essere riconosciuta. E forse non è un caso se questa parte del discorso di Phoenix è stata disgraziatamente censurata da tutti i maggiori media che hanno parlato del suo discorso. This time of day, there's smudges of figures, mistakes we've made. Captures a moment, just caught in time, where dark and day meet in the image of the stars. It's a slip of time in the perfect light, when the sun cascades into the night. It's a moment of distraction, when we become alive. We're running. Vi dà appuntamento alla prossima puntata, la nostra redazione al completo, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e dalla voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio, che è quella di Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la puntata numero 525 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.